Wolf Trips, I viaggi del lupo. E partiamo subito con un'altra super puntata di Wolf Trips, la quinta, caro Tony, giusto? Buonasera, prima di tutto. Sì, se ti sentissero anche magari. Però adesso sì. Certo, se sollevo il microfono rovinato. Perché era Halloween. Era Halloween, oggi quindi. Poi è il giorno di quelli che non ci sono più, dunque. Vabbè, io vi saluto. Stasera sì, è stata tutta una giornata così veloce, convulsa, quindi non c'è stato modo di cambiarsi. Vabbè, okay. Dai, va bene, dai, istituzionale, no? Sì, bene. Ok. Poi il bianco ci vuole. Vabbè, noi di Wolf Trips vi salutiamo, nel senso non che ce ne stiamo andando, ma che iniziamo la nuova puntata. Perché detto così sembra che ce ne stiamo andando. Andiamo a mangiare qualcosa. Ai microfoni salutiamo Daniele. Eccoci qua, buonasera a tutti. Ormai è arrivato alla fine del suo... Del mio training autogeno, tipo la stanza dello spirito del tempo, essenzialmente. Infatti, da mercoledì, giusto? Mercoledì o il 19, si parte. Ok, io passerò a supervisionare. Farà giustamente, perché deve vedere se l'allievo lavora bene. Il microfono lo devi abbassare per lui, Sì, dopo te lo devi... No, vabbè, ma posso anche stare lì in panchina, non è un problema. Poi salutiamo Tony, salutiamo ciao. La Debora. Ciao. E salutiamo allora un ospite forzato, perché l'ho dovuto portare qua, Federico, che arriva direttamente da, diciamo, dal bus Italia, mettiamolo così, che si stava molto meglio che qui, me l'ha già confermato. Visto anche cosa sta succedendo in giro, sì. In effetti. E poi salutiamo Fabio, che in realtà è immerso come al solito. L'altra volta mi ricordo, ho riascoltato il podcast, sì, che potete ascoltare su iTunes, e ho detto salutiamo Fabio, che è immerso nel cellulare, invece stasera Fabio è immerso nel computer. Sta diventando sempre più grande. Se ogni settimana la periferica sarà più grande. Adesso prossimamente la stampante, poi diventerà un server, poi immerso nell'acceleratore di particelle. All'ultima puntata dell'anno. Aiuto, è meglio di no con lui, perché che se poi ti moltiplica. O vai in croci strane. Salutiamo la Sabrina, che mette like a tutti i nostri post. Infatti devo proporgli una collaborazione, qualcosa, adesso vediamo un va po'. Va bene. Ci vuole anche a distanza, vediamo un po'. Beh, Milano non è che... No, perché lei non riesce a essere qua fisicamente. Sì, è vero. Poi salutiamo Katia, che sta gestendo anche oggi la pagina Instagram. Eh? E salutiamo la Cri invece dal veterinario. Cioè non è per lei, però diciamo che... Io direi che iniziamo subito. Stasera abbiamo un bel po' di informazioni, di contatti veloci, anche se non sono mai il numero. Vai. Beh, non lo vai, so. Dillo. Beh, allora, pagina Facebook è di Wolf Trips. Ok. Ci potete trovare sul sito internet di Radio Lupo. Sì, è partita anche la diretta, adesso la condividiamo anche sul Facebook. La condividiamo anche sulla nostra pagina di Wolf Trips. Su entrambe le pagine della radio e della pagina Wolf Trips. Forse. Sull'applicazione ci potete ascoltare. E buon ascolto a tutti presto. Va bene, allora io poi direi WhatsApp che dopo questa... non mi ricordo il numero. Il numero, vai. Stasera faccio la parte della crisi. Vai. Allora, il numero da contattare è 338-222-8983. Ok, perfetto. Okay. Io direi che iniziamo subito, partiamo sempre con la nostra ormai affezionata etichetta Dusted Walks Kingdom, che è l'unica etichetta, devo dire la verità, che non mi ha mai messo mi piace su tutti i contenuti che abbiamo. Cioè, tutte le etichette mi scrivono, questo non... Però devo dire la verità, a me piace come etichetta. Perché loro sono già fighi, loro non capisco. Sì. E secondo me, sai che settimana scorsa abbiamo iniziato con un pezzo jazz che non ti piaceva, giusto? E in effetti non è... E stasera invece non iniziamo con un pezzo jazz, quindi siamo tranquilli. Però è qualcosa molto particolare, potrebbe piacerti. Ascoltiamo lui è Boogie Belgic. Boogie Belgic. Hai ragione, sorry, chiedo scusa. C'è già anche un genere Boogie. Bravissimo, infatti poi mi dirai sul genere. Il brano si chiama Forever Più Ever. Plus Ever. You took mine ever, you forever and ever, you. E questo era Boogie Bel... No, com'è che hai detto che Boogie, si... Boogie. Oh, non mi viene in mente. Boogie Belgique. Non riesco proprio a dirlo. E ovviamente viene dal Belgio. Cioè... Stavo dicendo giustamente fuori onda che mi piace molto perché è un po' come l'altra base che hai, che mixa un po', che mixa un po' questa... questo stile anni, adesso non so 30. Questi anni sì, 30, vero, anni 30, con una base invece ritmata, a me questi Charleston Boogie. Ma lo ascolteremo spesso perché è un brano che mi piace molto, cioè ha fatto un paio di album che mi piacciono molto, proprio con la Come si chiama la famosa cantante, quella che arriva dall'Olanda. Dall'Olanda? Che è degli ultimi anni. Ah, non mi ricordo. Che usa queste basi come... Effettivamente lui ha fatto non mi anche ricordo, il disco con Giuliano Palma. Non mi ricordo. Vabbè, ci verrà andiamo a cercare. E dicevo, questo brano è del 2015. Ha fatto questo album con la Dusted Wax, ma anche altre sue cose che non sono male. Ma è un gruppo? Una No, è un artista. È un artista singolo. No, lui è maschile. È un DJ. Essenzialmente è un DJ che campiona musica. Non è. Queste sono tutte roba campionata. Immagina che magari avrà la sua discografia di vinili, no? Sì, cosa è quella la base che dicevi? No. Ok, la cerchiamo. E anche perché la Dusted Wax, ho cercato un po' di informazioni. Effettivamente il loro ideale di artista da pubblicare è l'artista che loro dicono riprende un po' il sound del passato e magari effettuando dei campioni. Quindi è proprio, cioè, lui probabilmente è proprio l'ideale dell'etichetta. Sì, infatti. No, vabbè, bello anche capire dove prende questi campioni. Comunque Tony, caro Emerald si chiama. Emerald. Sinceramente non l'ho mai ascoltata, però dici che sì, merita. Sì. Okay. Perché lei anche poi ha questa voce molto jazz. Uh-huh. Però ha fatto queste produzioni New Swing, come si chiama? Electro Swing, sì, Electro Swing devo dire che è un genere che ultimamente, soprattutto, non so, noi facendo teatro, quando devi fare un po' di riscaldamento, l'Electro Swing è una cosa che ti tiene su, interessante. Sì, tra un aperitivo e l'altro, ho capito, questi milanesi. E continuiamo sempre con un brano sempre di questa etichetta fantasmagorica, che a me piace tantissimo, spero che un giorno ci rispondano. Almeno che ti dessero un euro, dai, diciamo. No, vabbè, no, soldi non ne vogliamo, quello non è un problema. E ci spostiamo però sul genere più trip hop. Loro sono i Violent Public Disorders, che forse avevano già ascoltato qualcosa. Il nome mi dice qualcosa di nuovo. Però il brano è Sadness in Square. Dunque tristezza nel quadrato. O nella piazza. Nella piazza, sì, potrebbe essere. questa era un po' più tranquilla, dai. Ci siamo dovuti. Una... Anche se in realtà il titolo è Violent, cioè l'artista è Violent Public Disorderates, e poi mi mette. Però brano. Sadness non è happiness, cioè non è che va a fare un pezzo. Infatti, yeah. Non lo so, bello, però. Suggestivo. Che parola! Questa ragazza mi sta sorprendendo. Suggestivo, mi piace. Non dice mai queste parole in casa, Devo in privato. Sincero. Te le urla da fuori, dal cortile. Quella me ne dice altre. Ma suggestivo, veramente. Intanto sono arrivati degli ospiti che... Sì, esatto, vabbè, li presentiamo dopo con tutto il contorno. No spoiler. Che... Bravo, mi piace. Agli amici idea, di Gavirate. Esatto. Gavirate. Diciamo che c'è un pezzo di Gavirate in più qua. Okay. E continuiamo con un po' di musica. Ci spostiamo... settimana scorsa comunque non ho fatto la puntata sempre uguale, che tu mi bacchetteresti su questo. Ci spostiamo sull'etichetta Block Sonic, che è invece l'etichetta che propone più musica hip hop, rap. E beh, che poi è anche un filologico su questo genere qua. Sì, abbiamo appena sentito. Ecco. Il brano è un brano di... aspetta che me lo vado a vedere. Vai. Vai, leggilo se riesci. Coccolix. Che è una è uscita in una collezione lanciata sempre dall'etichetta si chiama Net Block volume 40. Ha lanciato queste collezioni di musica negli anni e questo brano è del 2012, quindi non è proprio nuovissimo. Mm-hmm. Dovrebbe essere francese? Sì, è francese. Se poi siete dal Belgio, siamo lì in zona. Anche perché il titolo del brano è Le Future. Che avanza. Chissà che vuol dire. Il futuro che avanza, penso. Ci sta. Il futuro che avanza. Vabbè, certo, non può fermarsi, nel senso. È vero. Va bene. Quindi niente, io direi che andiamo a ascoltarcelo poi dopo. Stavo pensando. Cioè, Tony, magari tu che sei più acculturato di me sicuramente, ma gli artisti francesi che hanno avuto il boom nel mondo, non ce ne sono stati tanti o dico una castroneria? In che senso? Perché io per dire, nella mia breve carriera, cioè nella mia breve vita di audio ascoltatore, io mi ricordo un gruppo che aveva fatto un pezzo che si chiama A Laurent Dance. Sì, ma quella è proprio una roba... super commerciale trash. Sì, ecco, non stiamo parlando di Daft Punk... o di Johnny Holiday, che è un cantante rock and roll, che è morto l'anno scorso, 2 anni fa. Ci sono stati vari artisti, beh, certamente non è che la Francia è quello che... rispetto agli italiani sicuramente più internazionalmente, Però no. vi devo un attimo contraddire. Aia. Sono andato a cercare due informazioni su questo. Non è francese. Coccolix. In realtà lui è un misto tra italiano, uruguaiano e vive a Barcellona. Beh, diciamo che quindi la Francia non c'entra una fava, perfetto. Il titolo è francese, però diciamo che l'artista. Dopo questo possiamo chiudere io e te. Andiamo via. Andiamo a mangiare. Comunque, però. Vabbè, viva l'Italia, viva la Francia, ma viva sì, tutte quello le sì, mode. Quello sì. Poi comunque, vabbè, dovrebbe essere il genere almeno quello, secondo me. Dovrebbe essere almeno hip hop, spero almeno quello, dai. If you're Abbiamo capito, è il futuro che avanza, dai. Lo poi, continuavo a dire. Sì, sì. Comunque è un genere strano, devo dirti la verità, perché è un po' hip hop, un po' crossover, c'è anche un po' di credo chitarra, che non sì, so. È un particolare. Non credo era... che dipenda anche dalla città, che è Barcellona, che è una gomera, è un mischione, è dici. Un mischione stupendo, sicuramente. È un grosso è... mischione. Sarebbe bello trasmettere da Barcellona. Mo mi chiedi io troppo. Io sai che non sono mai stato, non so perché, ma tutto ciò che è tendente al latino, cioè la Spagna, no, Barcellona, l'America del Sud. Non, Barcellona no. Di latino ben poco. Sì, sì, non lo so, io dico per ignorare, perché sono stato in Portogallo e mi è piaciuto molto, ma boh, la Spagna non mi fa... boh. Sì, ma non è che Barcellona forse è la città meno spagnola. Sì. Poi, ma infatti, è catalana. Ah beh, chiaro, guai. Mettiamo le cose perfette, eh? Okay. Ti vengono lì, ti tirano le bacchettate sulle nocche delle dita. No, beh, però dai. Quasi. Comunque volevo dire, questo brano qua, sai che prima abbiamo parlato della compilation Net Block, ed è una compilation di un po' di protesta contro le... c'è un logo che c'è scritto AAIR, ed è una protesta contro le major, la sì, RIA. E la, l'associazione... perché praticamente... americana o mondiale? Mi sembra mondiale. Mondiale proprio... che raccoglie l'etichetta di discografica. Ok. Sì, major. Dato che proprio parliamo di net label, quindi di etichette gratuite mm-hmm. che lasciano la loro musica in modo gratuito su internet, però devi riconoscere la loro paternità, diciamo, del brano. L'unica certo, cosa che richiede certo, minimo. A meno, caspita. Questo qua è stato proprio una compilation di protesta contro le major che soffocano, diciamo, i piccoli artisti che non possono emergere, mettiamola così. Colpa anche delle radio e via dicendo. Beh certo, diciamo che però il lavoro delle major è quello, cioè promuovere le proprie... Sì. Poi guadagnare sul prodotto che vanno a promuovere. Il prodotto è già anche una parola grossa, perché tante volte sì, vabbè, è proprio un uso e getta... spropositato, ecco. Beh sì, diciamo tutto quello che è commerciale alla fine della fiera viene creato ma una volta c'era anche una certa, come dire, tempistica mm-hmm. cioè, come adesso è tutto super veloce passi beh, dal sì. talent. Io adesso c'è questa famosa compagnia che mi propone la velocità mega e mi dice di guardare, magari dice guardi la serie TV che ti piace, ma nel frattempo puoi rispondere ai messaggi. Cioè, no, ragazzi, stai calmo, cioè, rilassati, ascoltatele le cose. Infatti, noi proprio in questo mondo di confusione siamo tipo una guida, no? Sì. Possiamo vederci così, no? Ma anche perché giustamente sono tutte canzoni, tutti gruppi che altrimenti non si potrebbero conoscere. Cioè, ci stavo pensando prima, nel senso, a me capita, non so se è mai capitato anche a voi, di incappare in alcune canzoni per caso, ok? Sì. Poi, che vi hanno poi fatto scoprire l'artista sì, e sì, così, no? La pubblicità potrebbe essere un buon canale. Anche. Perché c'è gente pagata per cercare nuova musica. Hai detto una cosa giustissima, perché tante pubblicità effettivamente prendono, pescano proprio dalle net label. Sì, sì, infatti vai a cercare artisti sconosciuti. Sì, dici, ma... E poi magari ovviamente, sai, quando fa un brano in una pubblicità, magari fa il passo un po' più alto, ecco. Passi da Bandcamp magari, già che... Passi dalla musica gratuita a farti pagare anche un bel po', mettiamola così. Ma a proposito di pubblicità, c'era anni fa la pubblicità della serie dei Tre Moschettieri su Mediaset, che aveva come jingle una canzone splendida. Disclosure. Esatto, Disclosure, You and Me. Cioè, ma quel pezzo lì, io detto, grazie alla pubblicità. Flute Remix. Passato ok, perfetto. Io non me lo ricordavo il titolo, speravo che se lo ricordasse qualcuno. Quindi. Bellissimo, un pezzo spettacolare e io l'ho scoperto con la pubblicità. È inglese. Bene. Va bene, io continuerei ancora con un po' di questo effetto... mischione hip hop rap. L'effetto cos'è che è? Cosa stai dicendo? No, effetto cocktail, diciamo. La base sotto. No, la musica è sempre... Prova a lanciare il prossimo pezzo, che io non vorrei impappinarmi nel dire con tutto questo titolo. Allora, questo è l'artista, aspetta, te lo indico. Okay. Questo è l'artista e questo è il titolo. Regenerated Headpiece. E la, il titolo è Majestic Magnets. Sì, è un brano sempre estratto che dalla... anche la Majestic è un'etichetta particolare. Giusto, giusto, è vero. Fly like fish with the first name Atticus. My human barcode confused the analyst. Like a new age platypus, sick in your battleship. The catalyst, lacing mad like an abacus. Sacred like Nazareth. We take this art form and transform beyond the depths of the space-time fabric. Me and your majestic magnets can keep the doors of your poetry pageants. Everybody can rap, anybody can rhyme. Warm bodies can make beats and think that their producers confused by the meaning of the term. The power of the word, the force of the orator. The raw data should define you as a mover and a shaker. A risk taker, a beta tester, an inventor. With each step you make a crater and break sound barriers like Chuck Yeager. Cause anybody can flow and not know that words are symbols and verses are temples and songs are ideologies. A personal journey that leads others to discover new mythology. Cause each word is a precious testament to what I believe and achieve through my messages. The meaning takes precedence over nonsense. If hip-hop's a book, here's your table of contents. Fly like bitch with the first name Atticus. My human barcode confused the analyst. Like a new age platypus, sick in your battleship. The catalyst, lacing mad like an abacus. Sacred like Nazareth, we take this art form and transform beyond the depths of the space-time fabric. Me and your majestic magnets can keep the doors of your poetry pageants. Making people think by expressing your inner being. What I'm seeing is the opposite of positive. The glamorization of materialism's ominous. Prominent in the mainstream, it pains me. Something to your cold getting done from the brain freeze. We need to push the envelope. Take the stage in a rage and cope with the common folk. Help people grow and learn and grow from people's help. Forget yourself, plus sweating what's popular. Supplies, paparazzi, Nazis with binoculars. This is hip-hop's inoculation and immunization from harmful agents. So rock the nation and leave an impression. The mind is the most dangerous of weapons. Fly like fish with the first name Atticus. My human barcode confused the analyst. Like a new age platypus, sick in your battleship. The catalyst, lacing mad like an abacus. Sacred like Nazareth, we take this art form and transform beyond the depths of the space-time fabric. We are your majestic magnets, can keep the doors of your poetry pageants. Wolf Trips. I viaggi del lupo. Il programma dedicato alla musica del futuro. Dalle 20 alle 22 preparatevi per due ore di musica underground. Break it, thinking you're free, but I am your DNA. Motherfucker! Show off my count door. bring it back. I'm top remove the fake king of New York. Wall Street, stand up. So talk shit, we own the label you release it on. We even own the social media platform you're talking shit on. We own the Instagram photo if you pose it next to Kanye. We own Kanye, we own the NRA. We'll sell your guns and then overcharge for surgery. We own the sports team that represents your city. We copyright life forms and then evict your neighbor. We sell university desks made by prison labor. King of NY, put Twinkies in your lunchbox. Laying off teachers and hiring cops. Everything in the city was constructed on debt. Hard to tell if you're worth more life or in death. We don't got a rhyme. If we say it's cool, it's cool. I'm selling cool, selling you you so you can be you. King of NY, the motherfucking spectacle. The merchant of death. You all of my prisoners. Bring it back on top, remove the fake king of New York, king of New York, king of New York. I'm the king of New York. Tony, ci siamo messi a parlare, è arrivato anche Fabio e ci siamo scordati di entrare. Fabio Bis. Fabio Bis, giusto. Allora, no, vabbè, ok, sì, è il Bis, dai. In realtà lui è il principale, l'altro è quello aggiunto, ma vabbè, dai. Ma in realtà dipende da chi arriva, no? Cioè, infatti, il primo che arriva, ma in Italia se lasci un posto vuoto... Sì, subito. Va bene, va bene. Mi ho ascoltato solo un'ultima cosa. Un brano precedente che era di King... Allora, era di Sole, King of New York. Un brano proprio... Questo era proprio hip hop, dai. Questo non puoi dire... Classico. Non l'hai neanche ascoltato, di la verità. NYC, New York City. Quello sì, sì, quello ci sta. Va bene, intanto volevamo invece salutare il nostro ospite di stasera, in arte DJ Jimbo, giusto? Senza DJ. Senza DJ. Senza DJ. Non volevo specificare, ma va bene, va bene. Va hai bene. Calato subito. Ho sbagliato tutto. Allora ho sbagliato anche a metterle sul sito. Non importa, dai. Va bene, va bene. Tu ci hai portato un DJ set che adesso dopo andiamo a ascoltare, di musica drum and bass. Quindi, drum and bass. Quindi immagino che quello è un po' il tuo genere. Assolutamente sì. Ma suoni in giro, dici un po' cosa fai. Ma ho iniziato come produttore, poi ho iniziato con i DJ set da camera da letto e mixo con i miei amici principalmente. Purtroppo serate non ho ancora avuto modo di sperimentarle, ma comunque c'è un po' di scena drum and bass, è rimasto qualcosa? Qua in giro a Varese sì, ce n'è abbastanza, anche nelle zone Milano ci sono, organizzano un sacco di eventi. Io, se non mi sbaglio, c'è un negozio di dischi a Milano in zona via Torino che vendono ancora, se esiste ancora. No, la vendevano quando suonavo io la drum and bass, Tony. Io suonavo nessun dorm a miliardi di anni fa. Era quello che era sviluppato in lunghezza, sì, no? Era bellissimo quel posto lì, è morto, purtroppo. Con la cremuccia però, te lo dico. Io ho ascoltato velocemente il DJ set, ti faccio un po' di spoiler, c'è qualche pezzo dei Pendulum, giusto? Ce n'è uno, assolutamente. Eccolo, eccolo. Beh ragazzi, come si fanno a non mettere i Pendulum se parliamo di... No, infatti, sono rimasto un po' più sull'old but gold. Ok, ottimo, okay. Ottimo. Nulla di troppo nuovo, stiamo dal 2014 in giù, però tutta roba che picchia. Bene. Ottimo. E artisti preferiti? Classici Pendulum, ovviamente mi hanno indirizzato loro. Sì, sì, sì. Poi andiamo un po' più sull'underground, Magnatics, AMC. Quindi ascoltiamo qualcosa di fuori dalle net label, Tony. Oggi sì, sforiamo no, un bene, po'. Bene, io sono... Oggi rubiamo la scena al programma che va in onda solitamente al giovedì, che salutiamo tra l'altro. Tu pensi che io l'ascoltavo quando è uscita nel 96-97? La drum and bass Jungle, sì, Gold, infatti. E Ronnie Sides, diciamo, quelli principali. Ecco. Sì, sì, Prodigy, sì, sì. Vabbè. Beh, Prodigy no, in realtà sì, qualcosina. Ma non... Sì, beh, sì. No, ma pensa che oggi ho dato un'intervista che lui andrà a vedere il concerto dei Prodigy a Livorno. Direttamente al Modigliani. Al 30 a Livorno. E lui diceva... Ah, il 30 a Livorno, detto. Il 30 a novembre, scusate. E lui diceva in questa intervista che tra tutte le musiche... Nell'underground quello che rimarrà sempre è la drum and bass. Ah, ci sta, incredibile. Ma c'è qualcosa di inedito all'interno del pezzo? O... Certo, l'ultimo brano l'ho fatto con un mio amico di un mio gruppo, ci chiamiamo The Treaters. Forse sta seguendo la diretta. Bella. Ok, ok. Salutiamolo allora, dai. Ciao Mattia. Bella. Va bene, va bene. Allora, facciamo così, ci ascoltiamo il DJ set. Sono curiosissimo e poi adesso. Dopo facciamo altre due domande, cioè, certo. parliamo ancora un po'. Intanto buon ascolto.

Questo quindi era il tuo inedito, giusto? L'ultima canzone, sì, sì, esattamente. Sì. Beh, suona benissimo, eh. Suona come gli altri brani, quindi... Sì, beh, mi piace poi che sono i tre pezzi, la prima parte un po' più melodica, la seconda un po' più cattiva e questa parte qua poi col piano che poi andrà... No, ma poi è bello grintoso, eh. Sì, si sente sì, che sì, c'è una bella dinamica la canzone. Bella no, ragazzo, sì. È bravo, un ragazzo in erba, ma è bravo. L'erba un po' alta perché come si può vedere ho dovuto prendere lo sgabello. Ti faccio una domanda. Ho una certa sindrome di nanismo rispetto a lui. Presentati intanto. Ma io sono il solito cretino, non sono Fabio. Ma una domanda invece, ma per creare, cioè nel senso magari questo brano in particolare, da cos'è che sei partito? Da quale? Sono partito da un vecchio brano di questo mio amico che aveva fatto prima di che ci conoscessimo, uh-huh. E gliel'ho ridimensionato tutto abbastanza da zero, ho ripreso tutta la sua melodia ma base nuova, basso nuovo, uh-huh. Diciamo che aveva dei punti in cui peccava, solo che mi piaceva troppo e ho voluto tra virgolette correggerlo. Quindi diciamo che è la melodia la chiave, cioè uno parte dalla melodia poi gli certo. Attacca gli elementi della DMV, sì. Essenzialmente. L'hai distrutto praticamente. Dalla melodia viene fuori tutto, cioè, esattamente. Il ragazzo non c'ha 20 anni, è un maestro d'orchestra. No, vabbè. Però è vero, giustamente, non, sì, abbiamo, sì, non, abbiamo, non abbiamo chiesto prima la sua età. Scusa, 20 anni. Domanda, quindi... 20 anni giovani. Da quanto tempo è che componi? Cioè, nel senso... Sono dentro nella drum and bass da 6 anni. Aspetta. Vabbè, 6 anni è già una bella esperienza. Ero anche dai. Minorenne quando l'ascoltavo... Purtroppo vabbè, li vedevo dai, non solo dallo schermo minori, gli dai. Eventi. Studiato musica, qualcosa, tutto così? No, tutto autodidatta. Che programmi usi per Ableton Live? Vabbè, Ableton è... Ableton Live e poi vari plugin. Certo che 14 anni con la DMB, la drum and bass, non è male come... Io a 14 anni, boh, ascoltavo... Nel 2002 ascoltavo Hot Party. Cioè. Vabbè, ognuno ascolta quello che. No, ridevo. Io 14 anni era tipo nel 97. E ascoltavo i Green Day. Ecco, per dire. Comunque, ridevo per una cosa. Come diresti tu, Ableton? Com'è che lo pronunci te? Ableton. Ecco, tu, Fabio? La mia è un dialetto londinese, ragazzi. Ableton. Verso Manchester si dice Ableton. E 9, non 9. Cioè, giusto. Invece la pronuncia giusta effettivamente probabilmente come dice lui si dice Manchester perché tu sei di Liverpool. Ah, ma anch'io sempre detto Ableton, cioè ci mancherebbe, siamo italiani, parliamo. Certo, hai ragione. Noi in realtà però utilizziamo FL Studio, cioè, ce l'ho la più retro. Ce l'ho, ho provato a usarlo perché il mio amico compone principalmente con quello, ma mi ci sono trovato troppo male. Sì, sono scuole di pensiero diverse, assolutamente così. D'accordo che comunque anche quello lì non è FL Studio, in realtà mm-hmm. È Fruity Loops. Che noi lo okay. In italiano spiccio è un livello, diciamo. Va bene, dai. Comunque, noi se vuoi restare, puoi restare. Certo. Faremo ancora quattro chiacchiere con te. Anzi, se ci vuoi mandare qualche altro DJ set più avanti, volentieri lo passiamo nei vari. Ma io tracce fare... inedite, magari. Sì, domanda, assolutamente. Ma tu quanto meglio. Sei alto? 1,80 passati, 1,85. Ma diciamo. Di brutto, perché se sono io 1,86 saremo io lì, è più o meno. Sì, eh. Mi sa di sì. Ecco, Fabio, io eviterei di fare questa cosa perché no, sennò Fabio, ci cacciano Fabio, dalla radio. No, Fabio, ci cacciano dalla Fabio, radio, te lo dico. Donne, sono 1,90! Ci stanno già cacciando dalla radio, sappilo. Vabbè. Ma io chiederei anche eventualmente un contatto social dove sì, poterti bravo, trovare. Bravo. Certo. Ho la mia pagina che si chiama Jimbo DNB, acronimo Drum and Bass, appunto, non perché è proprio un'impronta. Non male che te l'hai fatta vedere, non te la ricordavo. Un professionista, quando è cretino, sa quando far la spalla. Pirla! Vai. Quindi, Jimbo anche... scritto come? Perché magari sono le J, le Y. J e I, normale. Ok, perfetto. Un po' come Jumbo, ma con la I, essenzialmente. Sì, esatto. Tac. Diciamo che è un logo figo. Però, ah, okay, perfetto. Grazie però mi piace parecchio anche il nome del come produttore col tuo amico, che okay? Ricordalo? The Treaters. Ma Treaters cosa? Tony, tu che sei il nostro inglese. È praticamente quello che faccio agli altri, tritonone. Ah, ok, gli Zebedei. Ma no, dai, non penso che sia no, quello. Comunque, vabbè. Vabbè, comunque, noi ti salutiamo, però se vuoi restare qua, certo, male non fa. Andiamo a me il programma piace. Ok, a ok. Posto. Allora andiamo avanti ad ascoltare un po' di musica, ci spostiamo su un'altra etichetta che è la Phono Cake, che abbiamo ascoltato millanta volte. Il brano è di Kali con Deja Vu, ci tranquillizziamo un attimo e poi dopo sicuramente rialzeremo un po' il beat. Thank you. whichever day you come will be mine and yours. Suppose one day you're sad, there will always be something to feel good about, 'cause it will be mine and yours. Whichever day with you, you suddenly came into my life, you make me fly, you make me fly. I was walking down the street so mad, so down, so lost inside. Intanto dovremmo essere quasi al completo, sono finite le cuffie oggi, cioè abbiamo tutte le cuffie occupate. Abbiamo svaleggiato tutti i negozi di elettronica. Sì, giusto. Tra l'altro si è anche equalizzato adesso il livello di altezza tra hai le visto? Persone. Hai visto? Infatti adesso sono in piedi, sono più contento. Non mi allora, prima mi sembrava lui Frodo, io l'amico di Frodo, quello con i capelli rossi. Frodo. Io meno male che era Frodo e lui era Gandalf, cioè gigante. Infatti mi sentivo un po' nella terra di mezzo, nel Wolf Trip di mezzo. Sei in mezzo sicuramente. Vedi? Un po' come, dillo, che ti mancava. Intanto abbiamo ascoltato un brano dell'etichetta Phono Cake, che è un'etichetta che proviene da Dresda. Ah, il nostro Dresda. Amici di Dresda, ok. Salutiamo Dresda, ciao bella Dresda. Attenzione, che tra l'altro... Attenzione, però, dai, perché? Dobbiamo dire che è il rientro della Cri... ho detto che siamo tutti al completo, è rientrata, sì. L'ho già detto. Ce l'abbiamo fatta. No. Ciao ragazzi. Sì. Non ha salutato infatti, lei, però sì. Stavo dicendo, questa etichetta praticamente è nata nel 2003 e all'inizio produceva solo musica degli artisti di Dresda. Poi probabilmente nel 2006 si è accorta che erano finiti gli artisti. È iniziato ad aprire, diciamo, le porte a musica un Hamburgo, po' più a fianco. No, a un po' tutto il mondo, dai, mettiamola così. E no, produce della musica elettronica molto interessante, anche musica un po' più tranquilla come il pezzo che abbiamo ascoltato adesso. Vi ho zittito, eravate tutti belli carichi. Stavamo ascoltando le storie di Dresda, no? Hai come visto? Le mille e una notte. Ero lì ad ascoltare Dresda anni fa. Io invece stavo pensando, Fabio, che lui ha detto sei sempre mezzo come un. Quindi noi siamo due coglioni. No, dai, adesso non siamo così. In realtà parlava che lui era il naso, voi eravate gli occhi. Bravo, non so perché. Perché c'è sempre come la malizia nelle la mia vecchia nonna. Lui ha fatto le scuole alte. Hai visto? Infatti è alto. Continuiamo con un po' di musica e così almeno ci acquetiamo un attimo, perché vi vedo abbastanza No, sei tranquillo, Troni. Sì. Troni, bello Troni. Non c'è sono paragone. Lo sai. Eh? Ma ho detto Troni. È meno male. Ho detto Troni perché volevo introdurre il pezzo dopo, che il tizio che l'ha fatto si chiama Teppane, Triple, quindi Triple, come cacchio si pronuncia? Triple. Sarà Triple, Triple, come cavolo si dice? Quindi era proprio venuto da Tony a Troni, era solo per quello. Fly down. Wolf Trips, alla ricerca delle hits del futuro. We'll be right back. Yeah. E questo era Captive Portal, an example for. Un esempio di. Un esempio di. Oh no, per, no, per. Scusa, no, no, per. Però ti lascia così, un esempio per che cosa? Quindi l'ascoltatore si domanda per cosa sarà l'esempio, no? E pensa che l'etichetta si chiama MP3 Dead. Cioè... Ah, ok, perfetto. Perché fa tutto in WAV. Io dico che qui c'è gente che si accoppia, vabbè. Sono giovani. Vabbè, dai. È tutta invidia quella di Tony, no? Sì. Assolutamente, sicuramente sì. Intanto volevo presentarvi un artista che a me piace molto. Volevamo averlo in trasmissione, ma in realtà non so per quale motivo non riusciamo ad averlo. Lui si chiama The Smoker ed è un artista di un prodotto per varie etichette, tra cui la Efedrina e altre etichette. Lui di dov'è? Lui è del sud. Magari c'è qualche problema con le linee. Può essere. Comunque, visto che avevamo già tutto in programma, io direi che... Facciamo andare comunque. Sì, sì, i brani li andiamo ad ascoltare. Ho provato due suoi brani interessanti, sempre sul genere che stiamo iniziando a prendere nella seconda parte del programma, quindi... Sì, ma neanche più di tanto, dai. Abbiamo suonato di peggio nel tutto. E il primo brano che andiamo ad ascoltare di Smoker è Bit Nazark, che avevamo già passato. Sì, mi ricordo il titolo, che era assurdo. Sì. Che avevamo già passato in un'altra puntata, ma ci piace. Ci è piaciuto. Beats and tracks for days. Come on. Beats and tracks for days. Come on. Beats and tracks for days. Come on. Tony, ha trovato delle varie assonanze di questo brano, giusto? Sì, beh, un po' Martin Solveig. E poi anche il brano di Armin van Helden. Sì, Funk Fenomeno. Ah no, ma lui ha preso un altro pezzo di pop, vecchio. Sì. Beh, però l'idea era quella. Sì, dai. Sì, è vero. Tanto Fabio lo vedo rigenerato, giusto? Sì, mi stavo rilassando, quel momento di pace, di karma con me stesso, no? Perché sei stato in palestra, giusto? Sono stato in palestra e in palestra ho pensato tanto stasera. Mettiamola così. Giustamente in palestra non si fa più niente. L'hai mangiato? No, non ancora stasera. Oh. Tra l'altro abbiamo visto prima la pagina Facebook di questo The Smoker e ho visto che è nato in un paese calabro, ecco, che è Verzino. Ma infatti lui è in cui è nato uno dei miei più grandi amici d'infanzia. Quindi adesso non so quanto Verzino sia grande, cioè adesso... magari è suo cugino. Dici, magari si chiamano uguali di cognome. Vabbè, ma stasera abbiamo un altro rappresentante della regione Calabria. Sì, infatti io buttavo gli occhi a sinistra. Bravo. Presentiamolo, ragazzi. Cioè, è qua, si è fatto 1200 km per venire a Wolf Trips. Cioè, siamo così importanti che devono venire dalla Calabria. Cioè, presentiamolo. Su, Domenico, dai. Ma io lo presento, però lui, non lo so, è lì... Vedi, rimane sempre un po' lì nell'angolo. Facciamo tipo il telefono senza fili. Lui parla, noi... No, vabbè, l'abbiamo già presentato all'inizio comunque, ah, Federico. Della... Quando tu eri, non eri con noi e andavi giù a mangiare, per no, esempio. No, stavo facendo gli squat. Sì. Gli squat di... E devo dire che devo ringraziare il proprietario della palestra, che quest'anno ha fatto delle belle assunzioni. Le abbiamo apprezzate tutte quante. Sì, perché sono, sono bravi a insegnarti a fare gli squat, le no, assunzioni. Sono bravi a far vedere l'esercizio. Ah, infatti io guardo loro per poi fare l'esercizio. Ma è didattico, nel senso, è propedeutico, certo, a un miglioramento del proprio volume muscolare. Ma poi muscolare. Io mi chiedevo una cosa, nel senso, vabbè, adesso tanto c'è il video, mi vedete, no? Non sono filiforme, non sono neanche grosso. Ma vedevo in palestra, c'è tutta questa gente rachitica, secca, oppure palestrata. Ma che cosa vuoi fare in palestra? Cioè, io invece ho problemi di peso e quindi devo andare ad allenarmi, no? Per fare esercizio fisico, no? E io ho visto tanti quella gente, dice, minchia, ma stai bene così? E sono lì che si sfondano. Poi senti quelli lì. Quelli lì che c'hanno. Ma perché devi soffrire, ragazzi? Dei mio? Marcantoni con ste cacchio di canottierini aderenti che sembrano Paris Hilton. Se facevano il film di Sparta, facevano invidia direttamente. È vero, è vero. Tutti ho un. Leonida. Leonida, certo. Cioè, io non capisco. Perché vabbè, fare. Vabbè. Cioè, tu spendi 300-400 euro all'anno per cagarti addosso dal dolore. Ma dai, cioè, io spendo 300-400 euro all'anno. Ma mi devo divertire, mi devo... E poi tra l'altro immagino dove ti occupano anche le macchine, perché tu vorresti fare il tuo esercizio, ma lasciano lì gli asciugamani, queste cose. Bravo. Qua non puoi neanche fare le cose. Io li chiamo i fetenti. I fetusi, i fetusi. Che in calabrese si dice? I fetusi. C'ho gli amici di Verzino, ragazzi. Ho capito, cioè, ma lui è la fonte attendibile. Cioè, ma... te vieni dai Visconti, cioè, non ho capito io. Ma toglimi un dubbio, ma tu vieni nella palestra, vai dalla palestra quella lì che c'è anche il bar all'interno? No. Ah, perché se sono quelli che vanno in palestra e vanno direttamente al bar. Ma sai che a Milano ho visto una palestra famosissima, che non possiamo fare pubblicità, che ha le scale mobili. Sì. Cioè, sì, la gente per andare in palestra aveva la scala mobile. Sai, ma... che io andavo in una palestra che aveva l'ascensore? Vabbè, quella è anche la mia. Ma infatti io sogno. Ma non è la stessa. No, io ho un sogno nel cassetto. Cioè, proprio voglio salire nell'ascensore vestito di colore con la catena d'oro e fare madafaka. Ma perché? Tipo il pop anni 80, no? Run DMC con la gente lì. Non lo so. Cioè... cose senza senso, vabbè. Non c'è una palestra per la mint. Non c'è un mamma mia, attenzione, ragazzi. Con questo ci ha ammazzato tutti. Io direi che ce ne andiamo. Bello. Noi cerchiamo di fare un programma cacciarone, invece no, arrivano queste. No, in realtà lui sarebbe il primo cliente, vai tranquillo. Vabbè, comunque non c'è una palestra per la mente, però c'è una palestra per la musica. Ed è Wolf Trips. Quella. Cioè, me l'hai servita su un piatto d'argento. Mamma mia. È un po' come Roberto Baggio e Giuseppe Signori. Ma l'avete detto il numero? Vai, ripetilo, perché l'ha detto la Debora in tuo, diciamo, ha fatto le tue... È l'unica cosa che hai imparato in 3 anni, facciamogliela dire. Vai, ripetilo. 338, senza guardare. 338-222-8983. Qua. Promossa. Non c'è neanche il foglio. Quindi. Bene, bene, dai. Bene, bene. WhatsApp. Io lancerei un applauso. Mandarci... Regista, cerca un applauso. No, qualcosa, non ce l'ho. Non ce l'ho pronto, non ce l'ho pronto. Possono anche mandarci vocali, giusto? Giusto, giusto, giusto. Va bene, andiamo avanti con un po' di musica. E questa è una roba un po' particolare. Sai che ogni tanto... A me ispira il titolo. Devo tirar fuori qualcosa di particolare, perché sennò non sono contento. Allora, l'artista si chiama In Vitro. Che boh, sarà... E sarà di Murano. Infatti, bravissimo. E il brano si chiama Sonata Notturna. Quindi sembra molto una roba, non lo so, barocca. Non lo sì, so, una cosa del genere. Però andiamo ad ascoltarlo, magari poi mi dite un po'. La serenata che facevano... No, in realtà non c'entra niente, però vabbè, andiamo ad ascoltarcelo, poi dopo mi dirai cosa ne pensi, Tony. Thank you. quella sembra di giocare, sai, il gioco delle sedie, però con le cuffie. Cioè, quando finisce la musica, l'unico che rimane fuori. No, io devo stare attenta alle mie cuffie, che qua. No, ma stasera è preso bene. Tonica ogni tanto. Cioè, parliamo di cuffie da 20 euro, ragazzi. Ma neanche. $19.90 scontate. €21.20 scontate. Gialle, solo perché erano gialle. Certo, 21. Quelle blu costavano di più, eh. C'è crisi. Allora, vorrei attaccarmi, faccio un piccolo off topic a sta roba qua. Allora, io ho scoperto settimana scorsa che esiste un canale YouTube, sì, il cui titolo è "Quanto costa il tuo outfit?". Ok, ed cioè, ti fai una foto. No, e... no, cioè c'è un tizio che va in giro a intervistare i ragazzetti. Ah, l'ho visto anch'io. E chiede loro quanto costa. C'era un tizio che aveva addosso 51.000 euro di roba. 51.000 euro. L'ho visto anch'io, ma ragazzi piccoli di 17 anni, 10.000 euro di roba addosso. 14-15 anni alcuni avevano. Cioè, la roba che mi ha completamente sconvolto. È una sorta di tipo riccanza, sai, quella, cioè, quella mamma lì, cintura Gucci. Non voglio fare le marche, però marche famose, eh? Sì, sì, cioè 400 euro, 500 euro, scarpe da 1.000 euro. Ma tu sei male. Giacchetta personalizzata 4.000. Ma cioè, la gente va fuori di tutti testa. Potevano essere selezionati per far vedere i vestiti. Già c'era una prima. Sì, negli altri erano dei poracci. Chi c'ha 2.000 euro addosso è un poraccio, cioè, a sto punto. Adesso io non so voi, ma io quando ero piccolo penso che in lire con 40.000 lire mi ero vestito. C'avevi le Converse al mercato che costavano 10.000 lire secche, le calze di spugna bianche, bravo, la tuta che ti portava la mamma da lavoro, perché qua lavoravano tutti in confezione e quindi ti risalvavo con quei 6-7.000 lire. Niente, il cappello se faceva freddo in inverno, esatto, posto. Invece no, è una roba che mi ha sconvolto l'esistenza, questa roba qui. No, della... anch'io, ma tu non puoi, ma poi dici perché crescono viziati, e ci credo. No, cioè, ma io non è vizio. Cioè, beh, se sono i messaggi questi quello che vengono perpetrati all'interno di un... Non è che sono quelli che rivendono i famosi pezzi unici. Ma io ogni tanto dicevano i prezzi del resell, che non so cosa... Praticamente loro comprano dei pezzi limitati, poi lo rivendono a prezzi esorbitati e la gente lo compra. Cioè, ragazzini che fanno queste cose qua, magari comprano un paio di scarpe anche a 200 euro... Il primo, chi è che non risponde al telefono? No. Ah, non sei te. Allora, che magari poi hanno fatto anche una fiera a Bologna, mi sembra. Ok. E da 200 euro magari lo sparano a 2.000 euro. Per la miseria, per un paio di scarpe. Qualsiasi cosa. Ho capito, però devi avere i soldi iniziali per comprare questa roba. Eh sì, ma parti da 150-200 euro. Beh. E a volte si ritengono anche loro addosso, perché pensa che comunque è gente che fa il resell. Per arrivare a quelle cifre. È una roba che davvero non riesco a concepire. Non, io penso che se non mi comprassi, conoscevo questa cosa. Se mi comprassi un capo loro, penso che per un mese non vivo. Cioè, sì, sì, è così. Vuoi guadagnare al mese? Fai un anno. Ma poi tu immagini, spendi 800 euro per un paio di scarpe e non so, pesti una cacca per terra. Cioè, cosa fai? Ti impicchi. Beh, quella porta bene, vuol dire che trovi qualcosa di meglio dopo. Va bene, va bene. Non lo so, non lo so. Volevo lanciare il prossimo brano e poi dopo ho sentito anche l'artista che volevamo sentire prima, forse riusciamo a contattarlo in extremis. Vedi di chi era il cellulare allora? No, non è vero, ci siamo sentiti. È suo. Spegni quel cellulare, adesso facciamo un jingle, ti faccio fare un jingle a te apposta, spegnere il cellulare, facciamo un jingle così. No, scherzo. Oppure metteteli nella modalità aereo, grazie, come le hostess. Bravo, è vero. Io se vuoi faccio i messaggi miei. Fai così. Però in radio non è che funzionano allora tanto. Abbiamo la webcam. Va bene, il prossimo brano è della etichetta Monophonicos e chiederei a Tony, che lo vedo sempre strapreso, di lanciare proprio il titolo, di lanciare il brano. Allora, l'artista è Bobby Marlini e la canzone è Sexy Sexy. Vedi, lo sapevo io che l'avresti detto così. andate in un club oggi. Partite le coreografie. Sì. No, sembrava più il Capitan Uncino più che il metronomo. Sì. Io proporrei un palo in mezzo alla stanza. Sì, dipende così. Da che orario. D'altronde, spettacolo, facciamo una serata pole dance. Ecco. Abbiamo un sacco di spazio, quindi direi che un palo ci sta. Sì, ma detto come la Cristina sembrava impalata proprio. Cioè, alla Vladimir. No, facciamo le pire funebri come Giovanna d'Arco. Aspetta, vi volete bene, mi siete c'è, c'è la scena tipo Lily e il vagabondo ci tra Fabio e Tony. Ci stiamo facendo il filo. Vabbè, io direi che lanciamo un po' di pubblicità e poi ci sentiamo per l'ultima parte del programma. Vedremo se riusciremo ad avere il nostro ospite al telefono. Se no, vabbè, dai, uno ce l'abbiamo anche in carne ed ossa. Poi dopo lo salutiamo anche dopo. Vediamo certo. Se è ancora qui. Tu, non lo so, tu cosa volevi dire? E io volevo fare che settimana prossima mandiamo un messaggio, facciamo un evento. Sarà a Wolf Trips Pole Dance. Tu prendi tutte le canzoni che vanno bene per fare la pole dance e ci facciamo, mettiamo qua il palo e facciamo vedere come si fa la, ma che la pole dance è ginnastica, cioè non fate i porci, i soliti luoghi comuni, eh. Chris, sei d'accordo? Allora, no, io vabbè, certo, se vengono anche gli uomini a fare pole dance, certo. Eccola qua, al solito. Certo, par condicio. Va bene, par condicio. Anche secondo me va benissimo. Ecco. Io rispetto. Però anche perché sennò le prendo dalla cria, cioè. Ecco, bravo. Però io ricordo una promessa che ha fatto Fabio che ci portava la pizza. Io non lo so, però sai, a quest'ora c'ho anche un po'. Ma già preso per Crumiro quel radio, eh. Magari era una pizza in faccia, eh. Va bene. Intanto salutiamo quello non lo so se riesce a darmela, eh. Allora, facciamo così, salutiamo Sara che ci sta seguendo, ha detto che la diretta è in ritardo, è per forza che è in ritardo, cioè ora che rimanda su internet, di qua, di là, è per forza che è in ritardo. Infatti non è la diretta, è la ritardetta quella che ascolta lei. Io lancerei la pubblicità e guarda, con questo spot ti voglio ricordare che tra poco andiamo a mangiare. Wolf Trips, i viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. fatto tutta una parte super techno. Vabbè, vabbè, ce la ritagliamo dopo. Ce la ritorniamo dopo. Questa comunque era l'etichetta, era Digital Diamonds. Che non è male, non è male. Intanto dovrebbe averci raggiunto finalmente al telefono l'altro ospite di stasera, che è The Smoker. Ci senti? Fono troppo. Ah, ragazzi, eccolo qua, eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ciao. Ah, sì. Vi sento lontanissimi, però. È perché siamo tanto al nord, per quello. Ah, sì. Aspetta, aspetta, tanto io lavoro un attimino. Ok, adesso stiamo un po' settando un po' le impostazioni qua di regia per capire un po' di metterti un po' più a tuo agio, diciamo, nella, stare più vicini nella telefonata. Ok. No, niente, io avevamo già passato un pezzo prima tuo, che in realtà avevamo già passato anche in un'altra puntata di Wolf Trips, quindi ci piace particolarmente, che è il pezzo Beat Nazark, se non sbaglio. Ti volevo chiedere un po' che tipo di produzioni fai, per chi produci, quali net label, per quali net label lavori, mettiamola così. Domenico? Sì? Ok, mi sentite? Sì. Va bene, allora io ho fatto l'ultimo disco, è stato pubblicato su Irma Records, comunque un'etichetta storica. La Irma, sì. Cacchio? La Irma. Un'etichetta storica bolognese, bolognese. Perché comunque ha fatto un sacco di dischi italiani, fra i quali, non lo so, Colle del Fomento, comunque un sacchissimo. Sì, beh, la Irma comunque spaziava un po' ovunque le cose, cioè faceva un po' di tutto, anche Acid Jazz, queste cose qua. Sì, loro fanno un po' di tutto, fanno anche house, sono specializzati soprattutto in house music, sì. Insomma, è un bel traguardo comunque, per una realtà molto, da tantissimi anni che esiste la Irma Record. Sì, infatti, guarda, quando mi hanno contattato per dirmi che se volevo pubblicare con loro, sono stato veramente contentissimo. È stato veramente un traguardo raggiunto. Beh, direi e che poi un bel... la cosa è stata molto casuale, perché in pratica avevo dato il disco a un mio amico da ascoltare, che l'ha passato a Umberto di Irma, e Umberto mi ha contattato e mi ha detto: guarda, se lo vuoi pubblicare con noi mi farebbe piacere. Beh, devo dire, un bel traguardo per uno che, diciamo, che lavora in questo campo da quanto tempo? Io è da che faccio musica sono tantissimi anni, nel senso che ho iniziato a suonare nel gruppetto di paese quando avevo 14 anni, ma che produco adesso sono una decina d'anni, ecco. Beh, caspita. Quanti anni hai? 35. Ah, 35, dunque siamo nei livelli... Beh, la mia età, dai, la mia età, ci siamo. Ho iniziato a produrre su un'etichetta, su una net label molto conosciuta anche in Italia, che si chiama Noisy Beat Net Label. Sì. E che mi ha pubblicato 2-3 EP sotto il nome Da Bash. Mi ha fatto pubblicare un paio di EP di dubstep, ma vi parlo di già di 7-8 anni fa. E poi da lì è nata questa mia passione. Nella produzione ho iniziato a fare anche roba un po' più diversa, trip hop. Ho conosciuto Chantal, che è la mia cantante, che è stata fantastica, con la quale ho lavorato benissimo insieme, e siamo riusciti a mettere su questi due EP di trip hop, ecco. Ottimo. Tra l'altro, adesso io non so che brani, adesso ho selezionato un altro brano che è It Could Happen. Non so da adesso da dove è stato. Dove è stato pubblicato, di sinceramente. Smoker Dub. Sì, sempre suo. Però mi dicevi che praticamente hai fatto quindi una nuova produzione. Possiamo ascoltarla già da qualche parte o uscirà a breve? No, l'album uscirà penso fra 6 o 7 mesi. Sono in fase di produzione, ho già 5-6 pezzi, 5-6 pezzi pronti. Hai dietro delle spalle belle grandi, adesso con la Irma Record, Con la Irma Record hai delle belle spalle coperte, dunque fai la produzione, la puoi fare a un bel livello. Certo, un bel livello, ecco. Certo. Spero di migliorarmi sempre di più, nel senso che io sto studiando veramente tantissimo, mixaggio, sto studiando produzione, studio ogni giorno dalle 2-3 ore al giorno, perché comunque voglio dare il meglio di me. Ecco, pubblicare su Irma Record mi ha fatto anche capire comunque che per restare su questi livelli comunque devi fare della buona musica, devi studiare un sacco, bisogna sempre studiare, giusto, e imparare, giusto, cose nuove, ecco. Giustissimo. Sì, perché loro poi non è che danno così benestare alle cose semplici, sono molto di qualità come etichetta. Guarda, noi ti ringraziamo per questa piccola chiacchierata, siamo riusciti a sentirci proprio all'ultimo e niente, ascoltiamo un tuo brano e quasi quasi a sto punto ci risentiamo più avanti quando magari promuoveremo il tuo nuovo lavoro più avanti. Va benissimo, okay. Io ve lo manderò appena pronto, prima di darlo all'etichetta, ve lo manderò da ascoltare. Porca, per avere un parere professionale, guarda, lo faccio sempre questa cosa qua. Forse è meglio darlo prima ai DJ che alle etichette i pezzi. Va bene. Cioè, se piace ai DJ, puoi anche puntare a un'etichetta anche più importante o più... Va bene. Noi ti salutiamo e niente, ci sentiamo presto. Andiamo ad ascoltarci un altro tuo brano e a presto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Buona serata. Intanto volevo salutare di nuovo The Smoker, che l'abbiamo sentito prima in via telefono. Tanto ciao, The Smoker! Purtroppo voi eravate fuori a sfumazzare, quindi intanto sta morendo qualcuno. E questo qua è sempre un suo brano e ci ha fatto anche questa, diciamo, anticipazione che pubblicherà... Questo regalo. No, il regalo ce lo farà più avanti, nel senso un'anticipazione che pubblicherà un nuovo EP con un'etichetta che a quanto pare Tony conosce tantissimo, giusto Tony? La Irma Records. Irma, sì. È un'etichetta, anche la conoscevo, molto famosa. Quindi che si dice fuori? È tutto a posto? Tutto a posto, la temperatura si è abbassata di un paio di gradi, si prevede pioggia a tratti. Guarda, basta pioggia a tratti, dai. Potrei fare... Poi Giuliacci, Giuliacci. Buonasera. Da stasera dovrebbe iniziare a piovere. Ma io l'ho sparata a caso, se ci ho preso scusate ragazzi, non volevo mandarvela. In teoria. In vabbè, vabbè. No, saresti bene nel locale dove siamo andati mercoledì. E dove sei andato? Il Gufo. Orca. Lo iettatore. È interista. Ah, ok, allora no. Quindi niente, oggi sei andato in palestra, oggi, questa settimana... Settimana scorsa non sono venuto ragazzi, mi dispiace, perché ho avuto un piccolo problema tecnico con lo sciopero, vorrei dire basta questi scioperi che ci hai rotto. Ne abbiamo parlato e ti abbiamo anche salutato dicendo che eri una vittima inconsapevole dello sciopero. Cioè voi quindi... quando eravate a più di metà programma... Sì, tu sei tornato a casa. Io penso che ero arrivato in stazione a Gallarate. Abbiamo questi problemi. Ho fatto... Ben 4 fermate della metropolitana a piedi, cioè sono andato da zona quartiere Gallaratese a Rho Fiera Milano, 1 ora e 40 di cammino, e non puoi pensare quante parolacce tiravo in quel momento a ATM Trenitalia e a tutti i dipendenti di Trenitalia. Non guardare me, io non sono dipendente di Trenitalia. Di RFI. No, vabbè, RFI io ho lavorato, quindi non ho scioperato, non guardate me. E niente, la tua settimana invece? No, lascia stare. Ah no, è vero. No. Quella settimana, la peggiore era la settimana scorsa. Questa qua è già meglio. Sì, già. È già un po' più in ripresa. Beh, settimana scorsa mi ricordo una scena di lei che praticamente stava per dormire. Era lì seduta e stava per addormentarsi. Cioè ti dico solo questo. Era morta, Fabio. Era morta totale. Era batte me sul treno? No. Ecco, infatti, cioè, ragazzi, parliamone, il top of the top, il top of the dream, come top, si direbbe. Top of narcolectic, diciamo. Cioè, voi dovete... Scusami, ascolta, ma lì dietro hai il numero uno del dormire. Che non sono io, eh. No, non vedo nessuno qua dietro. Ragazzi, però c'è una leggenda sul treno Varese-Milano, no? Che c'è questa persona, ha detto anche l'uomo morto, che dorme dalla stazione di Legnano fino a Garibaldi. Quella persona sono io. Cioè io no, come arrivo a Legnano... Vedi che non dormo. Ti sei aggiornato. Adesso devi scendere a Rho Fiera. Cosa fai? Se ti svegli a Garibaldi perdi la coincidenza. Infatti tutte le volte quando mi sveglio con l'ansia... valigia! cravatta dietro che ti sembro tipo un indiano. Continuiamo con un po' di musica e poi dopo vediamo qualche altro aneddoto by Fabio. Azzo. Vabbè, ma cosa ci ascoltiamo? Allora, questo qua è Nicorus, e il brano si chiama Journey to the Center of the Earth e Dexima Remix. Oh, ha detto tutto giusto. Più o meno, cioè l'accento anche tu di Manchester. Manchester. Manchester bassa. Manchester bassa. scusami, invece mi viene in mente questa canzone. Ibiza. No, invece a me viene in mente tipo la quando guidi la notte, non so perché. Sì, è vero, è vero, perché ti ha fatto il movimento. Ascolta. Vai Nautilus 98-99. Ma la domanda è un'altra. Quando mai guidi la notte tu? Io guido la notte, fidati. Io guido la notte proprio, cioè sì. Conduco la notte. Lui i minuti della notte. Bravissimo. Lui guida solo il domenico. Questa era bruttissima. Ciao ragazzi, World Trip finisce qui. Ci vediamo settimana prossima. Non ci vediamo mai più, direi, dopo questa battuta. Vabbè, l'etichetta di questo pezzo, che tra l'altro Tony ha continuamente bistrattato, mettiamo così. Perché? È quello che ride da solo. E ride anche da non solo. Non è vero, qui è sempre la magnifica Digital Diamonds, che a me, devo dire la verità, piace molto. Pensavo più techno questo brano, però effettivamente ha più sonorità di house, ecco, dai, mettiamola così. Sì, sarebbe deep house, però alla fine. Deep house techno. Tech house. Tectonic. Sì, vabbè. Ah, mi piace anche quella. Va bene. Io se non sono cose che si mangiano non le voglio gustare. Eh sì, poi questa qua è l'ora. Perché dovete sapere, ascoltatori, che ancora noi siamo a stomaco vuoto. E inizia a sentirsi la fame, la stanchezza. Ma questa sera qualcuno ha stuzzicato e non sono io. Io ho mangiato delle. Allora, sono i residui che ho da Halloween, no? Che ho. Ho preso delle patatine a forma di orsetto al Lidl, sì, che mi portava la mia cugina da Zurigo quando veniva a trovarmi tanto tempo fa. E non le ho mai più mangiate, erano 15 anni. Le patatine a forma di? Sì, a forma di orsetto, sono una produzione tedesca, penso. E è stato un effetto nostalgia, non è che faccio. Ah, vedi, è come il pezzo che mi ha passato prima, che era di Dresna, quindi era di una produzione ma sua tedesca. Ma cugina è di Dresna. In realtà mia cugina si chiama Dresda di nome. E è Amburgo di cognome. È Amburgo, esatto. Bravo. Salutiamo Dresda Amburgo. Bella Dresda Amburgo, se ci senti. Batti un colpo in tedesco, però. Abbiamo comunque ancora in sottofondo il bellissimo pezzo che mi ha ascoltato prima, che piace tantissimo a Tony. Ma veramente mi piace. Mi sa che è Dexima che ha fatto un bel remix. Sì, così. Dai, no, non è male. Sembra un po' quei brani che richiamano le sonorità anni 80. Cavischi, bravissimo, proprio lui volevo dire. Ha detto una Cavischi, non sapeva neanche lui chi era. Beh, io direi che procediamo avanti con un altro paio di brani. Poi mi sa che stasera io sono KO, non so voi. Io sono proprio stanco. Da quello che già diciamo, penso di sì. Però devo dire una cosa, io stasera ho scoperto un Tony ballerino. Io lo proporrei ad amici di Maria De Filippi. Tony Manero. Tony Manero. Vabbè, cioè, mi regala un gettoniere giusto. Oh, ti va bene, vai, vinci e poi ti metti insieme alla Belen. Cioè, cosa ti lamenti? No, Belen è già occupata. Ah, ok. Vabbè, anch'io. Ci vado io, ciao. Andiamo a ascoltare il prossimo brano, che è di Adamson, Tie a Lot. siamo buttati sulla dark techno, mi diceva Tony. No, invece noi ci siamo buttati sui sedili ribaltabili. Esatto. Era un argomento leggermente diverso. Cioè, qua c'è un vetro, no? Sì, dove infatti. C'è la serietà e poi la demenza comandata da me. Tu comandi la notte, io gli ignoranti. Ecco. Mi dispiace per questo ragazzo giovane che felice in questo di gruppo. Farne parte. Ignorante anch'io. Ma che oh! Per fare una citazione colta. Vabbè, siamo arrivati agli sgocci, dobbiamo dire sì, le ultime. Sì. Volevo salutare il nostro ospite di stasera, che abbiamo avuto un ospite telefonico e un ospite invece dal vivo, quindi mi sembrava giusto salutarlo. Certo. Grazie mille. E Wolftrips, quando vuoi ovviamente puoi mandarci qualcosa, qualche produzione. Pizza, va bene. Una cassetta di vino va benissimo. Possiamo fare anche una festicciola, tanto la musica c'è, portiamo la birra e ci divertiamo. Non poi avremo la il pizza, palo. Il vino no, dai. Ho sentito palo, ho sentito palo. Va bene, va bene. E no, volevo dire... Sì, ma diciamo, Dani, che il palo è aperto anche agli uomini. Quindi... Sì, ma agli uomini non piace molto il palo. Guarda, io, guarda, quel ragazzo mi sta dando tante soddisfazioni. Io spero che l'anno prossimo sia ancora Wolf Trips. Tu che ne sai? Tu che ne sai? Parlo per esperienza. Secondo me se sondiamo... Attenzione! Attenzione! È pericolosa questa domanda. Stavi cascando e se caschi col palo ti fai male. Assolutamente sì. Attenzione! Siamo finiti nel limite del trash. Trash! Io te l'ho detto, io sono un po' come il demonio qua. Perché porto la demenza. Il prossimo ospite è Barbara D'Urso, sappilo. Urca. Ciao Barbie. Va bene, direi dopo queste Tony, bellissime buonanotte. Cose vuoi lasciare i tuoi contatti o non vuoi lasciare nulla? Perché... Oh, certo, la mia pagina Facebook Jimbo DNB, anche se è un po' morta vedrò di aggiornarla. Come, aggiorna certo. Jimbo DNB? Sì, acronimo okay. Di Drum and Bass, tanto per ma domanda, ma tipo i tuoi pezzi non riesci a pubblicarli su SoundCloud o cose certo. Di quel genere? Certo, sì, solo che su SoundCloud ho roba un po' vecchia, dovrei rivederlo un attimo come account, però eventualmente anche se uno volesse ascoltare qualcosa su SoundCloud? Certo, c'è qualcosa. Come ti trova? Se abbiamo il gruppo The Treaters, se no sempre Jimbo DNB. Perfetto, come SoundCloud. Perfetto. Va bene, va bene. Ci ascoltiamo l'ultimo brano e poi dopo ci facciamo tutti i saluti. Anche. YouTube? Ah no, aspetta, c'è anche uno YouTube. Anche YouTube, Jimbo e basta, così è un po'... Canale... No, vabbè, diciamo che non è facilmente trovabile, però scrivendo Drum and Bass qualcosa viene fuori. Ok, ok. Perfetto. Tra l'altro, visto che avevi aggiunto anche forse qualcosa sul gruppo DNB Varese, quindi c'è un sì, gruppo anche attivo di Varese. Ci sono dentro, ho pubblicato il volantino sì. Della serata. Eh beh, sì, il promo. Una pizzeria, siamo. Con il prossimo pezzo, due margherite e una capricciosa. E ogni no, dieci... c'ho fame! E ogni 10 margherite un omaggio, e direi. La Coca-Cola è omaggio. Offre Drum and Bass. Andiamo ad ascoltare Finger Flood con Dreamer e poi dopo ci dobbiamo salutare. Wolf Trips. I viaggi del lupo. Che succede? Magari io dicevo cazzate e intanto si sentiva, no? Sì, tutte si sono sentite. Ah, ok. Io ho preso anche appunti. Hai visto? English. Vabbè, abbiamo un po' sforato, però e direi che... Da qui non ero. Da qui non ero è stato chiuso. Blacklist, il Death Note. Blacklist è stato... direi che abbiamo sforato un po', quindi è ora che facciamo i saluti e ci leviamo e meniamo le tolle. Facciamo come Baglioni, si dice. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Ma in realtà vorrei fare come Shevchenko. Cioè? Questa non la conosco. Andrei. Ah, il ragazzo è andato sulla nostra linea, è arrivato che non le capiva, adesso invece guarda come le sforna. Vedo una persona piuttosto imbronciata dall'altra parte. Dobbiamo salutarti. Sì, esatto, perché adesso io, se tutto va come deve andare, mercoledì inizio con il mio programma. No. Facciamo una petizione, io lo voglio il ragazzo. Lo chiudete, non posso, non neanche iniziamo. Lo vogliamo il ragazzo, è simpatico, ci sta dentro. No, Domenico, devi farmelo venire. È giusto che prenda la sua devi strada. Devi farmelo venire. Senti. No, Senti, no. Se non vuole il palo... Comunque sì, non ne approfitto. Fallo venire, no? Mercoledì 19:20, il programma Nerdcorn, che parla di cose nerd, ovviamente, manco... Ah. Manco sembra... farla apposta. Esattamente. E poi sei dopo venerdì a Wolf Trips. Vedremo. Dai. Iniziamo, è giusto che prenda la sua strada. Mettiamola così. Va bene, dai. Però, l'abbiamo svezzato. Hai conosciuto la tecnica del Dome e la demenza del Fabio. Esattamente. Quindi diciamo che la cosa migliore è nel mezzo. È il palo della. Infatti. Che il, vabbè. Grazie delle citazioni. Va bene, no, va tranquillo, bene. Tu sei parte della banda. Però sei meno demente, quindi. Direi che facciamo un bel po' di saluti, perché caspita, ce n'è qua di gente. Aspetta, da salutare. Vado a prendere la lista. Vai. Allora, salutiamo. Allora, a casa sicuramente c'è da salutare la Sabrina e Katia e Sara, che sicuramente ci ciao seguono. Ciao Sabrina, ciao Katia, ciao Sara. O Sara anche, Katia, anche, Sara Katia, anche salutiamo anche Sara. E di Katia e Sara. Sì. Sono tre ciao, persone. Sono tre persone diverse, effettivamente. Poi salutiamo anche tutti quelli che ci hanno visto tramite la fantasmagorica diretta di Facebook. Ricordo che non si sente la musica per l'ennesima volta, purtroppo. È si così. Sentono le cazzate, ma non si sente la musica. Infatti me l'hanno scritto. È così. Ciao ragazzi, vi salutiamo tutti quanti. Se non si sente la musica non è un problema nostro, è per le reti di Facebook. Va. Tra l'altro salutiamo anche Davide che si era connesso ultimamente. Lo aspettiamo sempre qua da una vita, penso. Ciao Davide, ti aspettiamo a Wolf Trip. È possibile. Vabbè, poi salutiamo un po' di personaggi che ci sono venuti qua a trovarci. Sono chi, diciamo, in modo forzato, chi no. Beh, uno l'abbiamo perso perché uno è stato assorbito come dente dal PC e vabbè, sembra un po' Robocop. Però dobbiamo fargli un saluto del paese. Sì, cioè? Non so, saluto in calabrese, no? No, io che ne so. Sacci. Vabbè, salutiamo Federico, Debora, Fabio. Ah, sentito. Si è svegliato. Ok. E poi salutiamo la Cri, Fabio e Tony. Sto soffrendo un po' di amnesia. Datemi un po' di mano, io mi chiamo Gloria. Gloria, poi c'è Gaynor anche. Di ciao, salutiamo Fabio, 35 anni, fotomodello. E va bene, va bene, dai. Vabbè, ragazzi, siamo arrivati alla fine. È inutile tirare la lunga. Andiamo a prenderci un paio di birre. Ciao a tutti quanti, metti la musica. Mua, ciao. A settimana prossima. Ciao Giulia, ciao Simone. Li okay. Salutiamo. Direi che adesso ci siamo, andare. No, dobbiamo trovare un altro modo, perché qua sembra il club, sai quello... Sì, degli alcolisti, è vero. Il club del palo. Degli alcolisti, no. Non siamo al club degli alcolisti, no, ho sbagliato tutto, ciao. Vabbè, comunque, in teoria, se non ci cancellano dall'etere, dovremmo sentirci settimana prossima. Forse. Con un'altra intervista di quel famoso artista che vi ho presentato mille volte, che è Push Again New Fakes, che ne abbiamo parlato mille volte. Sì, e... vedo sempre anche... i post, le robe varie. In teoria settimana prossima, se tutto quadra, dovremmo avercelo tra gli ospiti. Va bene. Va bene, ci sentiamo settimana prossima. Ciao.